Radio 24 Reportage. A Cremona nasce il Tempio di Stradivari, di Adriana Fracchia. Pensa che il mecenatismo possa salvare la cultura in Italia? Me lo auguro profondamente, perché credo che l'Italia sia la culla nella cultura da cui veniamo tutti noi, quindi se non salviamo la cultura, che cosa lasciamo alle future generazioni? Ma è la cultura che vince oggi anche nell'industria. Chi non conosce oggi perde. Senza cultura, senza conoscenza, non si riesce a far più niente. E grazie a questa profonda convinzione del cavaliere Giovanni Arvedi, re dell'acciaio, che ora Cremona possiede un bene culturale unico in Italia e nel mondo. Così lo ha definito l'ex ministro del MIBAC Lorenzo Ornaghi in una visita in anteprima pochi mesi fa al Museo del Violino Antonio Stradivari, con annesso auditorium intitolato proprio a Giovanni Arvedi. In quell'occasione venne anche firmato un accordo per dare il via a due laboratori universitari all'interno del museo. Un miracolo che sarebbe stato impossibile senza un mecenate come il cavaliere Arvedi, che ha fatto così rivivere il palazzo in stile razionalista dell'architetto Carlo Cocchia, noto come Palazzo dell'Arte, dove Farinacci teneva le sue riunioni con i gerarchi fascisti. Più che comprensibile la felicità del primo cittadino di Cremona, Oreste Perri, che il 14 settembre si godrà l'inaugurazione ufficiale del nuovo Museo del Violino, il cui costo non confermato dovrebbe aggirarsi oltre i 10 milioni di euro. È un regalo non alla città di Cremona solo, ma è qualche cosa che è di più. Per esempio, il mettere assieme tutti gli strumenti dell'arte liutaria, che è stata riconosciuta come bene immateriale dell'umanità, sia gli strumenti della nostra storia, sia degli artisti, dei liutai contemporanei, quindi questo è molto importante. Riuscire a conservarli, perché la valenza è la visione, l'ascolto e la conservazione, e questo permetterà di riuscire a goderli oggi per noi, per tutti quelli che vorranno venirli a vedere, ma soprattutto anche conservarli bene per chi verrà dopo di noi, perché questo è un dovere che abbiamo. Quindi direi è un luogo importante per Cremona, ma importante per l'Italia, importante per la liuteria mondiale. E poi sono felice perché il tutto è stato grazie al cavaliere Arvedi, alla Fondazione Arvedi Buschini, e anche a un mosaico che è stato messo assieme di tante competenze e di tante esperienze diverse che siamo riusciti in poco tempo, perché è partito nel 2011 il progetto, e oggi siamo, diciamo, alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale. Nonostante i 5 secoli di tradizione liutaria, fino ad oggi Cremona non aveva un unico museo del violino, come ci racconta Virginia Villa, direttore generale del museo. Gli strumenti a Cremona erano conservati in tanti luoghi differenti, quindi era abbastanza complicato in alcuni casi per il pubblico riuscire a vedere tutto. In più, questo progetto nuovo è stato anche pensato grazie al fatto che avevamo a disposizione un palazzo intero, qui parliamo di più di 6.000 metri quadri, e quindi abbiamo messo insieme tutte le esigenze, quindi non solo gli oggetti che già erano conservati prima, ma intanto abbiamo ingrandito le collezioni, tutte queste collezioni di strumenti privati che ci vengono dati per un certo numero di anni, ma poi abbiamo inserito la collezione contemporanea, abbiamo inserito delle sale per le audizioni, un salone per le mostre temporanee, importanti anche da questo punto di vista, i laboratori scientifici. Avere un museo con i laboratori scientifici è importantissimo per la buona conservazione e per il futuro di questi strumenti. E una libreria, un ristorante, cioè un luogo piacevole, soprattutto questa parte nuova di percorso multimediale che ha permesso quindi di condurre i bambini, gli addetti ai lavori, i musicisti, ciascuno può farsi il suo percorso, entrare, fare l'esperienza dell'avvicinarsi allo strumento. Ma cosa rende unico questo museo nel panorama internazionale? Lo abbiamo chiesto a Paolo Bodini, direttore delegato alla liuteria del nuovo Museo del Violino e presidente di Friends of Stradivari. La particolarità è un po' un'unicità, nel senso che esistono chiaramente al mondo collezioni di strumenti, anche nostre, diciamo, strumenti cremonesi molto importanti nelle varie capitali e quant'altro. In genere sono tutte un po' immerse in musei musicali di carattere generalistico e quindi sono momenti preziosi, però questo invece è un museo interamente dedicato al violino, nel senso alla famiglia del violino, strumenti d'arco che nascono dal violino, e credo che è l'unico l'unico museo in cui uno può fare un percorso completo di conoscenza e di avvicinamento a che cos'è uno strumento d'arco. Abbiamo curato in particolare appunto questa parte didattica che intanto illustra ciò che c'era prima. Il violino non nasce dal nulla, nasce per un'evoluzione di strumenti precedenti, quindi questo si può capire e studiare, restano ancora delle aree di mistero in questo, ma tante cose sappiamo. C'è una sezione dove uno vede dal punto di vista proprio multimediale ma anche tattile come è fatto uno strumento, quali sono le parti, lo può scomporre, lo può combinare e capisce cosa c'è dentro e qual è il principio fisico-acustico per cui questo funziona. C'è la bottega di liuteria dove si può vedere il maestro che lavora, quindi capire anche qual è la manualità e l'interazione tra lo spirito del maestro liutaio e la materia che lui usa, in particolare il legno. E quindi quando il visitatore ha fatto questo percorso didattico è in grado di avvicinarsi allo strumento capolavoro e capirlo di più. Poi si possono ascoltare attraverso l'audioguida e si arriva fino alla visione dei capolavori contemporanei di quella che è la liuteria mondiale oggi, che si è diffusa da Cremona in tutto il mondo e che attraverso il concorso che da 36 anni Cremona organizza, che noi la chiamiamo un po' l'Olimpiade della liuteria, porta a Cremona attraverso selezioni molto importanti i capolavori della liuteria contemporanea, quindi strumenti di grandissimo pregio e grandissima qualità. Insomma, è stato fatto uno sforzo proprio per togliere la liuteria dalla sua nicchia e portarla a contatto del vasto pubblico. Il nuovo Museo del Violino contiene anche un grande auditorium da quasi 500 posti che rappresenta un vero gioiello di acustica. Lo hanno realizzato un grande esperto di acustica, l'ingegnere giapponese Yasushisa Toyota e l'architetto italiano Giorgio Palù. Abbiamo imparato moltissimo con il suono, perché ovviamente essendoci interessati sempre solo alla materia dell'architettura e del design, il suono è una materia veramente molto complessa. Quindi con i primi incontri con Toyota ci ha dato alcune linee guida. La prima linea guida importante è quella, per esempio, di evitare le forme concave, perché le forme concave generano focusing, cioè un ritorno sul musicista di più suoni che distorgono l'ascolto, e lavorare, se per forme curve, che è stata una scelta architettonica nostra, lavorare per forme convesse. Infatti l'architettura di questo auditorium è giocata quasi tutte su forme convesse e non concave. Ma poi l'interazione, il reciproco apprendimento tra l'ingegnere acustico, quindi l'osmosi di pensiero tra l'architetto e l'ingegnere acustico, viene fatta soprattutto sull'uso dei materiali. Ci sono dei materiali assorbenti e dei materiali riflettenti. La mia idea era quella di cristallizzare e propagarsi le onde sonore. Ho cercato di tradurre l'effimero, cioè il suono, in immagine, e l'immagine in sostanza, in forma, architettura, sempre però integrando le necessità acustiche. I musicisti come si trovano? I musicisti sono entusiasti. Ughi, che ha suonato in questa sala, l'ha definita un gioiello dell'architettura e dell'acustica e si è emozionato anche lui a suonare qui dentro. Alla presentazione del nuovo museo c'era anche il maestro Antonio De Lorenzi, che nell'auditorium ha suonato due brani di Bach e uno di Massenet con lo Stradivari del 1715, detto il cremonese. Quando si suona, la cosa importante è il ritorno del suono. Cioè, il violinista mentre suona deve sentire quello che suona. In poche parole, ascoltarsi. E ascoltarsi è molto importante, perché un conto è suonare in una camera, un conto è suonare in un teatro dove l'acustica è secca e il suono, come si suol dire, cade assorbito da troppo velluto. Un conto è suonare in una chiesa dove c'è troppo riverbero, il suono si confonde e quindi questo può creare disagio per ragioni opposte all'esecutore. Qui direi che abbiamo trovato esattamente il giusto connubio per farsi, appunto, che, come ho detto prima, quello che è l'ascoltarsi mentre si suona contribuisca a migliorare di volta in volta la propria esecuzione. A provvedere alla conservazione di questi preziosi violini realizzati da Amati, Stradivari, Guarneri del Gesù, c'è il conservatore Fausto Cacciatori. Prima di poter arrivare a un progetto di conservazione è necessario conoscere a fondo lo strumento. Questo significa una lettura dello strumento da parte di chi, chiaramente come uno storico dell'arte, sa leggere il bene e allo stesso tempo una conoscenza che viene appunto dall'indagine scientifica. Fatto questo lavoro di indagine preliminare è possibile avere una relazione su quelle che sono le condizioni dello strumento e a quel punto è possibile capire, valutare, indicare che tipo di conservazione effettuare su quello strumento. Quindi diciamo che come sempre si parte dalla conoscenza del manufatto per poter dare indicazioni sulla conservazione. A Cremona la liuteria non è soltanto un tesoro del passato, ma è anche una ricchezza del presente e si spera del futuro. Con le sue oltre 150 botteghe, la maestria di Amati e Stradivari continua nel tempo, anche grazie ad una prestigiosa scuola che prepara ottimi liutai. Uno di questi è il bergamasco Claudio Gavazzeni, che, sognando di diventare un futuro Stradivari, ci spiega il segreto di questa antica arte. Tutto è successo perché comunque avevo capito che la grandissima passione per il legno e lo scoprire che il legno può suonare, mi ha aperto un mondo che praticamente ha dato il via a tutto il mio iter formativo. Tutto parte comunque dal proprio desiderio e dal cuore, perché alla fine uno non si può improvvisare il liutaio, cioè se le tue mani non obbediscono alla tua testa e comunque al tuo cuore, quello che otterrai non è un violino. Secondo me l'unica cosa è proprio partire dal cuore e dalla propria passione. Ma secondo te qual è il segreto degli Stradivari? La risposta che darei al segreto è: se io effettivamente diventerò uno Stradivari, lo scoprirò tra 300 anni. Quindi diciamo che il liutaio è anche un lavoro di cui non si può avere la gloria subito. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.